sono due questioni. La prima è la ricerca di uno spazio che possa effettivamente proteggere da una globalizzazione, da una gestione della democrazia che appare sempre più distante dai reali bisogni e necessità dei cittadini. Quindi vediamo una sorta di effetto, un effetto specchio, per cui l'incapacità di governare i grandi processi della globalizzazione, l'incapacità di governare le politiche europee porta a una rinazionalizzazione, la Brexit. Ma gli stessi stati nazionali sono spesso molto distanti dalle prospettive di una cittadinanza di eguaglianza, di giustizia, sono stati sempre più catturati, diciamo, da elite di governo, e questo porta a un secondo rinculo, che è rinculo verso una dimensione più regionale o di ricreare in piccolo delle nuove nazioni, che siano quella scozzese o quella catalana. Si può andare avanti e arrivare fino alla dimensione municipale, diciamo, al ritorno di un certo protagonismo municipale in questi tempi. Ora, questo è un fenomeno che da un lato è preoccupante, perché non si recupera sovranità andando sempre una scala inferiore, si recupera sovranità riuscendo ad agire politicamente a tutti quanti questi livelli, a livello europeo, a livello nazionale, a livello regionale e municipale. Ma d'altro canto è anche una richiesta giusta: noi dobbiamo riuscire a creare una sovranità di prossimità, dobbiamo riuscire a dare più competenze laddove i cittadini effettivamente vivono. Ciò che si può risolvere a livello municipale deve essere risolto a livello municipale o regionale. Alcune competenze devono restare a livello nazionale ed altre competenze invece dobbiamo darle a una Unione Europea unita, politica, democratica, che è l'unica maniera di recuperare il controllo sopra alcuni grandi temi come quello delle migrazioni o dei flussi di capitale. Quindi insomma siamo di fronte a un momento storico in cui dobbiamo riuscire a riconcepire lo stesso significato di Stato nazionale e di divisione di competenze in un'ottica multilivello. Cito proprio due elementi che hai appena citato tu, cioè la gestione ad esempio in chiave di austerity della crisi economica e la questione migratoria possono essere le cause che hanno portato a queste manifestazioni? Sono delle cause di questo sentimento di perdita di controllo, no? Ricordiamoci lo slogan della Brexit: take back control, riprendi il controllo. Il punto però è che questo controllo non lo recuperiamo trincerandoci dietro i confini nazionali, ma lo recuperiamo costruendo una vera democrazia transnazionale, sovranazionale. Quindi paradossalmente, per riuscire a governare un sistema politico, un sistema economico che sembra sfuggerci di mano, la soluzione è andare a un livello superiore rispetto a quello a cui siamo abituati ad agire, a livello meramente esclusivamente nazionale. Questo però non è assolutamente in contraddizione con le richieste di maggiore autonomia a un livello municipale, soprattutto, ma anche regionale. Le due cose possono e anzi devono andare di pari passo. La creazione di uno spazio politico europeo democratico si accompagna straordinariamente con quella che si chiama l'Europa delle regioni, no? Un'Europa in cui ci sia una maggiore sovranità a livello locale, a livello regionale, ma che questa sovranità venga esercitata all'interno di un comune spazio politico che metta assieme una pluralità di spazi regionali o municipali o nazionali per appunto riprendere il controllo sopra quei temi che a livello regionale francamente non riusciamo assolutamente a controllare. Come fare per evitare che in realtà la cosa si declini con forme di egoismo localistico, che può essere xenofobo, può essere appunto nazionalista ma anche regionalista, e riacquisire una dimensione collettiva? Sì, è molto preoccupante la risposta che ha dato Zaia il giorno dopo i risultati del referendum sull'autonomia: vogliamo tenerci qui le tasse, perché il punto non può e non deve essere quello, non deve essere la costruzione di spazi sempre più chiusi in loro stessi e che tentano di mantenere quel poco privilegio economico che ancora gli rimane, sottraendo delle risorse ad altre comunità. E quindi una parentesi interessante è da notare che l'impatto maggiore, ad esempio, di una indipendenza dalla Catalogna sarebbe non per i cittadini catalani, per cui alla fine non cambierebbe così tanto, ma per i cittadini dei cittadini dell'Andalusia o dell'Extremadura, che sono le regioni più povere della Spagna e che beneficiano dei trasferimenti fiscali che provengono dalla Catalogna. Quindi bisogna assolutamente evitare questo egoismo fiscale, ma non soltanto per una questione di giustizia, ma anche per una questione di efficacia, perché uno spazio politico che si trincera dentro un nazionalismo economico o ancora peggio un regionalismo economico di questo tipo è uno spazio politico che alla fine impoverirà quegli stessi spazi. Se noi vogliamo riuscire a riportare giustizia e anche crescita economica all'interno delle nostre regioni, quello che dobbiamo fare è cambiare i meccanismi della politica economica a livello nazionale quanto a livello europeo. Semplicemente mettere un muro facendo finta di poter fermare i flussi del grande capitale, e poi questi muri, lo sappiamo, fermano soltanto invece i flussi delle persone, è una risposta non solo moralmente sbagliata ma anche economicamente controproducente. Si tratta del terzo spazio di cui parli insieme a Yanis Varoufakis nel tuo libro? Sì, diciamo, questo terzo spazio è proprio l'idea che noi non dobbiamo rassegnarci a una falsa scelta binaria fra lo status quo, che significa un'Europa priva di democrazia e che abbraccia faccia invece politiche economiche disfunzionali, o dall'altro lato un ritorno a una finta sovranità nazionale che ci porta in una direzione di maggiore xenofobia e anche di maggiore povertà alla fine. Ma che è possibile inserire una terza alternativa, è possibile immaginare precisamente quello che dicevamo all'inizio, una riconfigurazione del nostro modello politico e del nostro modello democratico. Da un lato la costruzione di un'Europa politica su cui riprendere il controllo attraverso la partecipazione cittadina e quindi una democratizzazione delle istituzioni dell'Unione Europea, e dall'altro una maggiore democrazia di prossimità e quindi un maggiore protagonismo per le città, qualche cosa che è assolutamente all'ordine del giorno in Spagna oggi. Si parla ora solamente della Catalogna, ma prima della Catalogna ci sono gli straordinari movimenti municipalisti quali quello di Ada Colau in Barcellona. E quindi questo terzo spazio è un po' uno spazio di recupero di democrazia a tutti quanti i livelli, a livello più alto che è quello europeo e a livello più basso che è quello di prossimità di città.